6. Ascolta e controlla. 1. Vogliono andare al cinema. 2. Che cosa vuoi fare domani? 3. Voglio telefonare a Giorgia. 4. Chi volete invitare? 5. Lui ha fretta, non può aspettare. 6. Possiamo andare in macchina al centro?